della mobilitazione di queste ultime settimane che sta vedendo gli insegnanti in tutto il paese scendere in piazza per protestare contro l'ultima riforma educativa promossa dal governo di Peña Nieto. Sentiremo poi ancora Martina, la nostra corrispondente fissa oramai del mercoledì mattina, per raccontarci un po' di insomma quello che continua a succedere in tutta la Francia nella mobilitazione contro la loi Travail. Sta per iniziare un'altra settimana di blocchi e di scioperi, insomma ci aggiornerà un po' sulla situazione. Proseguiremo poi con una piccola rassegna stampa su temi tutti legati alla formazione. E quindi vi aggiorneremo su come insomma questo governo sta cercando di rimodellare sia l'università che le scuole superiori, che insomma tutto l'ambito della formazione in base a una logica che non ci piace. E ricorderemo poi ancora l'appuntamento di questo pomeriggio con la calata di Salvini in città, e daremo anche qualche aggiornamento rispetto all'appuntamento di Bologna, dove invece appunto la sua presenza era annunciata da ormai da qualche tempo e si sta creando una mobilitazione che ha raggiunto anche qualche primo risultato. Questo è più o meno quanto, vi lasciamo ancora un po' di musica, poi iniziamo con la prima diretta. Prova 1-2, 1-2. Dico ascolta ne richiamo, e la gente lo sente quando arriviamo. La crew più limitata della struggle, provata. Lo senti al primo tocco come vino, dannata. Vorrei parlare a tutti ma poi tutti non ascoltano, meglio così. Fermo in volo, colibri. Ai miei tempi c'era un cazzo ed è un cazzo quello che in mano. Ai tuoi tempi c'era tutto, anche musica che schippiamo. Questa storia è stata scritta e non sono comandamenti. Riconosco un falso, toccando nei lineamenti. Prima della 5D, prima delle TV HD. Non torni indietro, come dall'HIV. Tutto parla alla mia fede, c'è scritto in ogni città. C'è chi pecca d'avarizia e chi pecca in creatività. Resto fermo e mirato, sparato, direzione il cielo più stellato. Aria, aria, missile sparo. Non serve molto per comprendere un linguaggio semplice, anche se certi sono vuoto, senza rendere. Degli anni zero siamo i testimoni sempre più lontani. Raccogli queste perle, ne ho piene le mani. Per ogni anello animale in cattività, la catena alimentare, l'anello si spezzerà. Resta fermo ogni pietra, ogni chiodo fisso nella testa di chi esplora. Troppo fragile, riesce a dirlo ora. Quello che mi serve, Palermo è la mia yard. Il suono sta col culo per terra come i clochard. Ho preso a calci questo rap, ho fatto una mezza carriera. L'erba nella pipa è una cattiva consigliera. Ma Pippo che cazzo fa, fa amicizia con la pantera. Gli lascio due pizze e le pippe sulla tastiera. Io mi sfogo uguale perché pazza ed è vera. Nel cratere di un cilotto con le tue rime la sera. Stocca giù con me, sciocca controlla tutto. Tu non fai stage diving che si rovina il trucco. Tutto occupato dai mezzi, dai carri armati. L'odio pieno tiene insieme dopo che ci siamo amati. Ora nella vita vera cadono i nickname. Brividi, ancora la mia ombra, ancora miniti. Ti fanno il sorriso di Paolo Limiti, ma chiusa l'officina. Non puoi customizzare certi lividi. Corro forte ora, in questi tempi tristi, a rovistare tra i cartoni coi collezionisti. Questa è la mia radio, quindi zero vittimismi. Il mio DJ ti spacca il festival con tutti i crismi. Scuola di nocche dure, tecniche del puncia. Non comprare il disco, meglio un regalo in busta. Hai fatto bene quella foto con la funcia. Adesso puoi sucarti la merda dalla cannuccia. Rinuncia. Blaster, suona vita, blaster. Questo non è il nuovo. Questo blaster. Let's go all the way. are the smartest dummies. Can't read the language of Egyptian mummies. And a flag or a moon. And can't find food for the starving tummies. Pay no mind to the youths, cause it's not like the future depends on it. We'll save the animals in the zoo, cause the chimpanzee, them a make big money. This is how the media pillages. On TV the picture is savages and villages, and the scientists still can't explain the pyramids. Evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids, stereotyping the image of the images. And this is what the image is. You buy a car, keep pants, and all of a sudden you a say a Indiana Jones. And I tip out the gold and tip out the scrolls and even the bird bones. Some of the worst paparazzis I've ever seen and I've ever known. Put the words on this place so the world can see, and that's all that will ever show. So the ones in the west will never move east and feel like it'll be at home. Get tricked by the beast, but the way them a go flee when the monster is fully grown. Salamonic lineage where them still can't defeat and them could have never clone. A spiritual DNA that prints in my soul and I will forever own, Lord. Are we born knowing all? We growing wiser? Are we just growing tall? Can you read thoughts? Can you read palms? Can you predict the future? Can you see storms coming? The earth was flat, if you went too far you would fall off. Now the earth is round, if the shape changed again everybody would have start love. The average man can't prove up most of the things that he chooses to speak of. And still run research and find out the root of the truth that you seek of. Scholars teach in universities and claim that they're smart and cunning. Tell them find a cure when we sneeze and that's when their nose start running. And the rich get stitched up when we get cut. Wanna heal them broken bones in the bush with the wet mud. Can you read signs? Can you read stars? Can you make peace? Can you fight war? Can you milk cows even though you drive cars? Can you survive against all odds now? Allora 11:19, bentornati all'ascolto di Parole Ribelli sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come vi abbiamo annunciato pochi minuti fa, iniziamo con una prima corrispondenza per discutere di quanto sta accadendo in Messico. Lo facciamo con Andrea Cegna, che intanto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ciao Andrea. Ciao a voi, a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Blackout. Allora, con te volevamo farci un po' raccontare di quello che sta appunto succedendo in tutto il Messico da alcune settimane, con la protesta degli insegnanti contro la cosiddetta riforma educativa che è stata varata dal governo in carica, che sta suscitando insomma un'ondata di proteste molto vasta. Tra l'altro insomma la categoria degli insegnanti non è nuova a questo tipo di mobilitazioni, da sempre è stata insomma una categoria molto presente all'interno delle mobilitazioni del paese. Quindi ti chiederei innanzitutto di spiegarci un po' in cosa consiste questa riforma e perché sta suscitando questa ondata di mobilitazioni. Allora, questa riforma, usando le parole del comunicato delle ZLN uscito due giorni fa a supporto della mobilitazione dei maestri della CNT, iniziamo a fare una prima precisazione. In Messico esistono due grossi sindacati dell'educazione. Uno è la CNT, che nasce nel 1979 in Chiapas, e l'altro è il Sindacato Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione, che è SNTE. I due nomi sono molto simili, ma la natura e la forza e la radicalità dei sindacati sono molto molto molto differenti. La CNT perché protesta contro questa riforma? Appunto, usando le parole del comunicato delle ZLN, perché non si tratta di una riforma educativa, ma si tratta di una riforma legata al mondo del lavoro nell'educazione. Ovvero, questa riforma prevede che tramite un test identico per ogni grado di istruzione dell'istruzione pubblica, ovvero che va dalla scuola primaria alla scuola preparatoria, esattamente dalle nostre elementari alle nostre scuole superiori, si valuti la preparazione dei docenti e in base all'esito dell'esame vengano dati contratti e orari e stipendi. Che cosa voglio dire? Se non si passa l'esame perché si è considerati insufficienti, il maestro avrà a disposizione un solo anno di contratto sicuro per poi dover rifare il test l'anno dopo e, se risultasse ancora insufficiente, essere bocciato. E questa è una questione. Invece, chi ha una valutazione buona avrebbe un aumento di ore di lezione, chi addirittura ottima avrebbe non solamente un aumento delle ore di lezione, ma anche un aumento di stipendio. L'obiettivo qual è? Ridurre il personale in pubblico dei maestri, aumentando le ore di lezione ad alcuni e con il tacito interesse di distruggere e smantellare ancora di più la scuola pubblica in Messico. Ricordiamo che in Messico, per un articolo della Costituzione, la scuola non solo è pubblica, gratuita, ma è anche laica, con delle forme di eccellenza incredibili, tipo l'Università Nazionale Autonoma de México, l'UNAM di Città del Messico, è una delle scuole d'eccellenza, delle università d'eccellenza in tutto il mondo. D'eccellenza anche perché, tenendo fede a questa logica, ovvero che la scuola in Messico è laica, gratuita e pubblica, è una delle poche università al mondo completamente gratuite, però è molto difficile accedervi, perché per accedere ai corsi bisogna superare prima la scuola preparatoria e poi i test d'ingresso che sono molto selettivi, appunto per questa sua grande forza e possibilità di gratuità, che però molto spesso sfavoriscono chi frequenta le scuole pubbliche, perché appunto le scuole pubbliche in Messico sono legate a un disinvestimento molto forte. Basti pensare che nei giorni in cui mi trovavo in Messico ho letto articoli e alcuni censimenti per cui l'11% delle scuole in Messico non ha i bagni, e addirittura se si va negli stati più meridionali come il Chiapas, Oaxaca, oltre il 30% delle scuole non ha i bagni. Quindi questa cosiddetta riforma educativa altro non che non è che una scusa per aumentare la precarietà nel mondo dell'istruzione e smantellare la scuola pubblica. Contro questo i maestri si stanno mobilitando, e si stanno mobilitando con un grande appoggio di genitori e anche altre parti della società civile messicana, perché risulta evidente e chiaro che i maestri non possono essere valutati con un esame, a parte che la scuola primaria, la scuola preparatoria, non si può pensare che l'esame possa essere lo stesso, ma anche in un paese profondamente rurale, profondamente complesso come il Messico, non si può pensare che chi insegna magari nelle comunità più rurali e indigene abbia lo stesso tipo di insegnamento di chi insegna in città, e quindi già c'è questa complessità. E l'altra è che l'insegnante non è bravo solo perché è preparato, ma anche perché ha una capacità di stare in classe, di informare i propri studenti, farli appassionare alle materie e non solo quindi insegnare ma anche educare. Questo ovviamente il test non lo prende in considerazione. La protesta contro questa riforma è iniziata già a dicembre, perché lo stato del Chiapas è stato il primo stato ad applicarla, facendo svolgere i test nel dicembre 2015. A Tuxtla Gutiérrez l'8 e 9 dicembre 2015 ci sono state delle forti mobilitazioni di piazza, oltre il 90% dei maestri non si è presentato a questi test, e in questi fronteggiamenti di piazza c'è stato anche un morto, stiamo parlando del 9 dicembre 2015. Quindi diciamo che l'onda lunga della protesta è iniziata a dicembre e ha visto il 15 maggio di quest'anno, ovvero 18 giorni fa, oramai, il lancio di uno sciopero a tempo indefinito, cioè uno sciopero senza fine, con la volontà di bloccare la fine dell'anno scolastico e aprire un tavolo di trattativa per bloccare questa riforma. Perché in questo periodo? Perché in molti degli stati del paese è proprio in questi giorni, in questo periodo, che si svolgeranno questi test attitudinali per i maestri. In Michoacán, una settimana fa, dovevano svolgere appunto queste prove, l'85% dei maestri l'hanno boicottata, e lì è arrivata la prima risposta pubblica del governo che non vuole assolutamente bloccare la riforma, anche perché il segretario del Ministero della Pubblica Istruzione messicana, Nuño, si gioca su questa riforma, le sue possibilità di essere il candidato del PRI alle prossime elezioni del 2018, quindi gioca su questa riforma una partita politica molto più ampia, ha dichiarato in televisione che i maestri che per più di 3 giorni non si presenteranno a scuola senza una giustificazione, non considerando lo sciopero una giustificazione reale, sarebbero stati prima decurtati dello stipendio, poi in seconda battuta licenziati perché ci sono oltre 23.000 supplenti pronti a sostituirli. Questa è la prima e unica risposta pubblica che è arrivata dal governo. Questo ha fatto sì che la mobilitazione si radicalizzasse e si ampliasse. Basti pensare che il primo tratto della protesta è avvenuto soprattutto in 4 stati, Chiapas, Oaxaca, Michoacán e Guerrero, oltre che a Città del Messico, con un grosso presidio fisso sotto il palazzo del governo, sgomberato 2 volte, la seconda volta sgomberato 2 sabati fa, con tanto di maestri deportati, perché caricati sui pullman e deportati nelle capitali degli stati di provenienza. Ma a questi, che sono i 4 stati epicentri della protesta, più la città di Città del Messico, ci sono anche gli altri stati dove la CNT è un pochettino meno forte, che però si stanno mobilizzando. Basti pensare che ieri il Tabasco si è aggiunto, e nel Tabasco ieri 13 città hanno marciato e hanno bloccato la didattica. Nei 4 stati epicentro la didattica è bloccata per più del 90% delle scuole, nonostante il governo stia provando a raccontare che invece le scuole sono aperte e gli studenti vanno a scuola. È vero che le scuole sono aperte perché il governo fa di tutto per tenerle aperte, ma insegnanti e studenti all'interno non ci sono. Così come un altro stato che si sta piano piano portando alla ribalta della contestazione legata a questa lotta dei maestri è Veracruz. Quindi possiamo dire che tutti gli stati meridionali del Messico in questo momento sono in sollevazione. Gli altri sono un po' alle porte a guardare, ma perché in quegli altri stati la CNT è più debole ed è invece la SNTE, il sindacato più moderato, che negli anni ha lucrato sulle lotte della CNT, cioè i risultati portati a casa dal Coordinamento Nazionale dei Lavori dell'Educazione erano per tutte e tutti, quindi anche per le maestre e i maestri aderenti al Sindacato Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione, e che in questo momento non solo non sta protestando, ma anche in alcuni casi boicotta la CNT. Quindi diciamo che a grandi linee questo è quello che in questi giorni, da 18 giorni ormai, sta avvenendo in Messico. Ecco, la considerazione che mi veniva è che appunto questa cosiddetta riforma educativa, che poi appunto, come ben spiegavi tu, poco a che fare poi con la scuola in sé, cioè con l'educazione in sé, ricorda una serie di dispositivi, di introduzioni che sono state fatte nel sistema scolastico universitario anche qui in Italia, dove questa questione della valutazione, che è assolutamente complessa e spesso scivolosa, viene usata appunto per mascherare tagli e finanziamenti differenziati, che finiscono appunto per creare un po' poi scuole di serie A e di serie B, che mi immagino appunto, se questo è già evidente in Italia, in un paese come il Messico, queste conseguenze di tipo profondamente classista sarebbero ancora più evidenti. E mi sembra che in qualche modo anche la geografia della mobilitazione, quindi con alcuni stati che si stanno mobilitando in maniera particolarmente forte, rifletta anche un po' il fatto che in alcune parti del Messico queste conseguenze sarebbero particolarmente drammatiche. Esattamente, con una specifica in più: noi parliamo di un sistema educativo che è assolutamente, da un certo punto di vista, se pensiamo, rivoluzionario, potrebbe essere considerato nell'Europa del 2016. Noi parliamo di un sistema educativo gratuito, ma dove gratuito sono anche gratuiti i libri di scuola, per dire, non c'è nessuna tassa di iscrizione, laico e pubblico in tutto il paese. Quindi, se di fronte a un articolo della Costituzione che sancisce l'istruzione come diritto inalienabile, c'era tutto un processo che ormai dura da oltre 30 anni di smantellamento invece dell'istruzione pubblica, per creare appunto classisticamente, come potremmo dire, cercando di creare un neologismo, una scuola di serie A, che è la scuola è la scuola privata, la scuola di chi ha i soldi per poter mandare il proprio figlio, la propria figlia a studiare in una scuola di qualità, è una scuola di serie B, che è la scuola pubblica, con anche delle accelerazioni ovviamente legate, come dicevi giustamente te, anche ai luoghi di provenienza. non è un caso che siano gli stati del sud, gli stati più rurali, quelli a maggioranza indigena, che più stanno difendendo il diritto a una scuola pubblica, perché sono quei luoghi dove lo squilibrio già all'interno proprio della società è maggiore ed è più forte. Laddove l'unico sogno che si può avere per poter accedere all'università è appunto quello di avere una scuola pubblica di qualità che possa permettere agli studenti, ai ragazzi di poter fare sia le scuole preparatorie sia accedere agli esami per poter andare all'università. Laddove sono minori gli investimenti pubblici, lo raccontavamo prima, no? Con la maggior parte delle scuole che non hanno i bagni al loro interno, sono proprio negli stati più meridionali. Quindi è un processo molto grave e pesante proprio di smantellamento e superamento dell'articolo della Costituzione, uno degli articoli della Costituzione nati direttamente con le rivendicazioni e sulle rivendicazioni della rivoluzione del 1911, quella guidata da Zapateviglia, che ricordiamo Zapateviglia hanno perso, ma la loro forza culturale ha fatto sì che ci siano alcuni articoli della Costituzione, quello sulla scuola, quello sui campi e quello sulla riforma energetica, quella che è un pezzo anche delle conflittualità che si sta generando in Messico, ovvero in Messico tutte le forme energetiche, dal gas al petrolio all'acqua, sono pubbliche e di proprietà pubbliche, e invece il governo Peña Nieto sta cercando di privatizzare anche questo tipo di risorse, sono il lascito di resto di quella grande mobilitazione, di quella grande rivoluzione che vive ancora non tanto solo nel nome degli zapatisti, ma anche nel cuore di tanti messicani in percorsi di autonomia a Città del Messico, come l'organizzazione popolare Francisco Villa indipendente. Quindi c'è proprio il tentativo di non cambiare la Costituzione, ma di smantellarla, nel senso svendendo le eccellenze e quei tasselli che hanno cercato di rendere il Messico un paese meno ricco di distanze, per quanto poi le distanze in quel paese sono una qualcosa di all'ordine del giorno anche all'interno delle stesse città, ma anche e soprattutto all'interno delle diverse latitudini e longitudini del paese. Quindi sì, quello che sta avvenendo è una questione molto, molto grave di devastazione della possibilità e del futuro per milioni di studenti e anche per la vita di milioni, se non di milioni, di sicuramente di centinaia di migliaia di maestri in tutto il paese. Ecco, l'altra cosa che ti volevo chiedere, infatti, che in parte anticipavi in quest'ultima parte del tuo discorso, diciamo negli ultimi anni in Messico appunto le proteste sono state tante, diversificate, e il governo attuale di Peña Nieto, con questo programma appunto di riforme neoliberiste, è molto avversato, diciamo, e sta incontrando un'impopolarità piuttosto diffusa. Questa lotta degli insegnanti si sta legando ad altri pezzi di protesta, penso ad esempio anche a quello che è stato e che in parte ancora è tutta la mobilitazione che era seguita in seguito alla sparizione dei normalisti, sia questo vastissimo movimento che si era attivato per chiedere appunto una verità e giustizia su quello che gli era accaduto. Allora, laddove ci sono delle scuole normali rurali, gli studenti e le studentesse delle scuole normali rurali stanno lottando al fianco dei maestri. Succede in Guerrero, succede quindi ad Ayotzinapa, dove si è consumato il dramma della sparizione dei 43 studenti, succede in Michoacán, succede in Chiapas, dove a Tuxtla c'è una scuola normale rurale. Quindi sicuramente alcuni settori stanno lottando i maestri perché capiscono la centralità, riguarda i genitori dei bambini che vanno a scuola, riguarda la rete delle scuole normali rurali, riguarda il mondo della sanità. In Chiapas e in Oaxaca il mondo della sanità, i primi giorni della protesta, dell'inizio di questo sciopero dei maestri, hanno solidarizzato scioperando anche loro, stando al fianco dei maestri. Quindi sicuramente l'appoggio alla CNT è molto ampio e crea un forte dibattito nel paese. L'altra questione è quella, come dicevi giustamente te, legata a Peña Nieto. Il ritorno al potere del PRI nel 2012 è stato accompagnato immediatamente da una protesta, che era quella che è passata col nome di Io Soy 132, che era questo osservatorio di studenti e studentesse di Città del Messico che già prima della tornata elettorale avevano colto la possibilità del ritorno al potere del Partito della Rivoluzione Istituzionale con un broglio elettorale, un broglio che quasi sicuramente c'è stato per riportare al potere Peña Nieto, e quel movimento è stato duramente represso con cariche, arresti e fogli di via anche dalle città. Alcune persone non possono più tornare a Città del Messico. Quindi è un governo che è iniziato con la precarietà e con l'insufficienza democratica e sta continuando in quel senso. Le persone in Messico dicono apertamente che dal 2012, cioè dal ritorno al potere del PRI e con l'arrivo di Peña Nieto, il Messico è un paese più insicuro, è un paese dove si ha paura. Si ha paura per la propria vita, c'è stato un aumento vertiginoso delle scomparse forzate, così come dell'omicidio di giornalisti, ma è anche più insicuro perché non si vede un futuro. Il tentativo della riforma energetica, quindi di togliere la pubblicità delle forme energetiche, sta portando a un fatto che le bollette di acqua, luce e gas aumentino. C'è un aumento vertiginoso del prezzo della benzina, perché parti di Pemex sono già state vendute, quindi c'è una crescita del prezzo della benzina. E adesso questa riforma educativa, cioè c'è un'accelerazione del ritorno delle politiche neoliberali, non che il PAN di Vicente Fox e Calderón non lo fosse, ma il PRI ha proprio un ruolo centrale di accelerazione costante di questa imposizione di politiche, e quindi un paese molto più insicuro in cui le proteste sono all'ordine del giorno. Ma insieme alle proteste all'ordine del giorno si sta anche alzando tantissimo il tasso di repressione e militarizzazione. Mai prima nella storia io mi sono imbattuto in una città del Messico così piena di polizia, così piena di militari, così piena di agenti in assaltanti sommossi in ogni angolo della città e di fronte a ogni manifestazione. C'è un controllo isterico delle persone agli angoli delle strade. Magari questo non riguarda gli stranieri, perché gli stranieri, essendo un valore economico per il paese, sono lasciati tendenzialmente in pace rispetto ad anni fa, quando è iniziato ad andare in Chiapas a supportare le comunità zapatiste e la rivoluzione zapatista. I controlli quando si va in comunità, quando si torna dalle comunità, il controllo di passaporti, perquisizioni dei bagagli, si è ridotto quasi allo zero, per quanto i controlli e la presenza dei militari, di spie e dell'intelligence sia ancora fortissimo. Però nei confronti della popolazione messicana invece a ogni angolo delle strade questa cosa qui è insostenibile. Città del Messico ne è l'esempio, perché se per anni è stato uno invece degli esempi di fiore all'occhiello di quasi possibilità di protestare, di possibilità di dire la propria, in questo momento si stanno chiudendo a maglia e a tenaglia gli spazi di dissenso. Va bene Andrea, noi ti ringraziamo insomma per averci fatto questo quadro, appunto non solo sulla protesta ma insomma un po' sul contesto messicano attuale. Speriamo insomma di avere modo di risentirci nelle prossime settimane, per quelli che immagino ci saranno aggiornamenti rispetto a questa protesta degli insegnanti. Quindi niente, ti ringraziamo e ci risentiamo presto su queste frequenze. A disposizione quando avete bisogno, presente. Grazie mille, buona giornata. A voi. Threaten me with your thoughts, just never speak it. One gun accompanied by prayers I never needed. Burning flesh, skin peeling, slow inferno. Take away what we love, we'd all be Joe Paterno. Reporting live from a city where they gun tote. Sober in a sauna full of blunt smoke. Y'all concerned with Drake and Common. I'm concerned with niggas having fake in common. Though I'm leading, I don't really know the path, but the future can't be worse if you really know my past. Beg to be understood anytime I show the wrath, but how could I expect third parties to know the half-life? When the tent rises, but you the candle wick. Sorta like Kyle Williams out in Candlestick. A-Bite shouldn't grab a hammer by the grip, shit. Billy Cundiff couldn't handle the kick, shit. They say I changed since stardom, can't share the same success, we ain't share the same problems. So, got big just to show them what the gym does, never mind shooting, they ain't show me where the gym was. That's why I do a lot on Spike, so if you look up to me, you got them at the wrong height. I mean, I'm not a role model, nah, I'm a piece of shit, a product of never being given a piece of shit. Breaking day, got the grind of a trucker, and my logic ain't designer intertwined with you suckers, loaded nine is a buffer, but no time for you fuckers, there'll be bodies in the sewer when my mind's in the gutter. So, last night I had an epiphany, the wrote it in my rhyme book in calligraphy. I see so many people looking for validity, that's the wrong search if what's lost is dignity. I certainly have grown since Mouse, chrome under the couch, but I'll stomp his face to make it known what I'm about. If he own what he spout, put my nikes on his cheek, knife foaming at the mouth, get it? Reminded when I vent, nigga, God designed it, it's in the print. Two memos for the spineless, one's repent. Second jewel, even my kindness is a strength. Nickel, no beef, no malice. Not at all. I got no vendetta for y'all. I mean, I only want better for myself. Sometimes I even want better for y'all, I swear. There's no love in hip-hop. Irony, not even on Love and Hip Hop. Spacious closets, Persian rugs, make sure I'm dressed at my best for the jerks to judge. Had a talk with my ex and knew for certain I was bugged, so I let the door slam feeling worse than I was. She said all I ever made her feel was hurt and disgust, which in turn hurt cause that was my version of love. I can't clear yet or you need better resolution. It seems the chances we agree are forever ruined. We talking about how, I'm talking about execution. We talking about now, I'm talking about evolution. But better days gotta come. I'm a good amount of bad, right amount of so wrong. And Heidi Klum left sealed, which only proves my point. Shit can only be ugly for so long. Slaughterhouse founder, can't derail a captain. Ain't enough niggas praying I fail for it to happen. Cause on both sides of the coin, you get fed shells in unison, hollow heads from red tails. Nah, I don't wanna see a weapon to keep me from what I'm destined. Some will see that as a blessing. And my dudes swear to keep me happily from harm. So I do the legwork, they carry the arms. Check it. Shorty I had over Saturday, never act away and squirt till she oversaturates. She go hard in the dark, no change, but see I'm getting it. Even when the car's in park, nickel. The hood is on some bullshit, so it ain't weird to see I'm aiming at the pulpit. Fate's an empty collection place, spirit of ruins. We used to a different type of community, where guns take the place of the quiet type, the pastor. If he's scared, can't believe what he say about the life after. The stained glass is bulletproof. Sometimes a liar's mouth can be full of truth. I done heard gospel from a sinner. Told me to season my pride at that dinner. And here this grain goes. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth coming live, Future Shock. It's five dimensions, six senses, seven firmaments of heaven to hell, 8 million stories to tell, nine planets faithfully keep an orbit with the probable tenth. The universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted powerless, up out of this towering inferno. My ink so hot it burned through the journal. I'm blacking at midnight on Broadway at Myrtle. Hip hop passed all your tall social hurdles, like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor, better keep your alarm set. Streets too loud to ever hear freedom ring. Say it back in with your sleep. It's dangerous to dream, but your chain cats get they chip back. You dead now. Killing fields need blood to graze the cash cow. It's a numbers game, but shit don't add up somehow. Like I got 16 to 32 bars to rock it, but only 15% of profits ever seen my pockets. Like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear. Like nearly half of America's largest cities is one quarter black. That's why they gave Ricky Ross all the crap. 16 ounces to a pound, 20 more to a key, a 5 minute sentence hearing and you're no longer free. 40% of Americans own a cell phone, so they can hear everything that you say when you ain't home. I guess Michael Jackson was right, you are not alone. Rock your hard hat black as you in the terror dome. Full of hard niggas, large niggas, dice tumblers, young teens in prison greens facing life numbers. Crack mothers, crack babies and AIDS patients. Young bloods can't spell, but they can rock you a PlayStation. Snoo Mathers with my motherfucker's ass. You wanna know how to rhyme, you better learn how to add. It's mathematics. Mighty most definitely. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science. What are we talking about here? Mighty most definitely. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science. What are we talking about here? Yo, it's one universal law, but two sides. sides to every story. Three strikes and you bitten for life. Mandatory. Four MCs murdered in the last 4 years. I ain't trying to be the fifth when the millennium is here. Yo, it's 6 million ways to die from the seven deadly thrills. 80-year-olds getting found with 9 mils. It's 10 p.m. where your C's at. What's the deal? They on the hill pumping grills to keep they bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next stripe. When the average minimum wage is 5.15, you best believe you gotta find a new grind to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. So frontliners got their gun in your back. Bubble and crack, jewel theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Stiffer stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison. Visto che la mettiamo, insomma, facciamo presente che è uscita un nuovo pezzo dei Purman Style che ha come finale, insomma, anche una dedica per tutti i compagni e le compagne arrestati che, come al solito, salutiamo sempre. Siamo disobbedienti, ribelli non conformi a regole alle quali vorrebbero sottoporci. I porci stanno in giacca e cravatta. Una disfatta di massa, di una massa distratta che accetta la loro tratta. Ma non si abbassa la guardia, non lo farò. E la tensione resta alta ed è logico. Non è lo spread, l'eurobond, il vero problema è la mancanza di speranza che alla lunga pesa. Ma la mia schiena non si piega, resta sempre dritta e non accetta condizioni che san di sconfitta. E mentre il Papa twitta e non versa l'IVA, tu paghi pure l'aria a Gesù Cristo che ti manda l'Ivan del suo conto corrente. Ma io cuore ribelle, vado controcorrente. E se poi per la gente resto solo un bandito, un militante, non sanno che mi fanno il complimento più grande. È fuoco che mi brucia dentro e che brucia la pelle. Uoi, mi fa andare sempre controcorrente. Fuori dagli schemi che mi impongono, io non sarò mai come vogliono. Colpa del mio modo di pensare, cuore ribelle. Questa canzone mettila in una bottiglia e dopo accendila. È fuoco che mi brucia dentro, lanciala. Metto musica giusta per la mia anima ribelle. Dalla nascita al primo segnale per voltare pagina. Si alza la testa un popolo che ha fame, terrorismo, post-brigatismo, allarme nazionale. Poi se stai compatto e li costringe a indietreggiare, scattano arresti a tappeti in ogni angolo dello stivale. La sola cosa che interessa oltre alla Serie A, un po' di sana cronaca, carne, pasta e media. Saranno lacrime e sangue ma non le mie. Saranno mille fuochi, mille piazze, mille vie. Ora faccio paura, non mi fai più paura. Io non ho più paura perché yeah. Sangue ribelle, faccia tosta, testa dura. Resta la mia natura, continuare a resistere. È il fuoco che mi brucia dentro e che brucia la pelle. Uoi, mi fa andare sempre controcorrente. Yeah. Fuori dagli schemi che mi pongono, io non sarò mai come vogliono. Colpa del mio modo di pensare, questo cuore ribelle. Sono nato per combattere, si sa. Scorre nelle vene, scritto nel mio DNA. E il mio cuore ribelle che parla, che canta, che batte in ogni città. È la mia natura, sono nato per combattere, si sa. Scorre nelle vene, scritto nel mio DNA. E il mio cuore ribelle che parla, che canta, che batte in ogni città. È fuoco che mi brucia dentro e che brucia la pelle. Uoi, mi fa andare sempre controcorrente. Yeah. Fuori dagli schemi che mi impongono, io non sarò mai come vogliono. Colpa del mio modo di pensare, del mio cuore ribelle. Dice 51, continuiamo con gli approfondimenti di questa mattinata. Ci spostiamo, andiamo a parlare di Francia, dove stanno continuando le giornate di sciopero. Sta proseguendo, insomma, la mobilitazione contro la loi travail, il Job Act francese. La mobilitazione che stiamo vedendo tutti in questi giorni, insomma, sta letteralmente mettendo in ginocchio il paese, che ha visto in questi giorni centri nevralgici per l'economia del paese, insomma, bloccati. Parliamo di decine di migliaia di persone, molte zone della Francia, che insomma hanno bloccato le vie di comunicazione, le raffinerie, i depositi nei mezzi pubblici, dalle stazioni alle centrali nucleari, insomma tutta un'altra serie di altre infrastrutture. I cortei li vediamo sempre, hanno visto un'altissima partecipazione nonostante la violenza della polizia, che si fa insomma ogni giorno più pesante. Qualche giorno fa, il 26 mi sembra, durante lo sciopero, un ragazzo, un giornalista, è stato ferito gravemente da una granata sparata dalle forze dell'ordine, appunto, si trova ancora in coma. Comunque l'obiettivo è quello di bloccare tutto, diventare ingovernabile, lo slogan di questi giorni. Da ieri sera ci giunge notizia che i macchinisti delle ferrovie sono entrati in sciopero, un sciopero illimitato, e per i prossimi giorni si annunciano blocchi anche per gli autobus e le metropolitane. Però insomma abbiamo in collegamento con noi Martina, che oramai è la nostra corrispondente fissa, e tanto ti salutiamo, ci senti? Sì, ciao. Ecco, allora ci vuoi aggiornare un po' su come sta andando avanti la protesta in questi giorni? Sì, allora, appunto, come dicevi tu, dopo il corteo della scorsa settimana, che è stato particolarmente importante sia dal punto di vista dei numeri, perché diciamo che si è ritornati un po' ai numeri che c'erano tra marzo e aprile, delle grosse, grosse giornate di mobilitazione, e è stato importante anche dal punto di vista poi della determinazione e soprattutto anche alla risposta repressiva, insomma, che è stata ancora più dura rispetto alle altre volte. Appunto questo corteo che ad un certo punto ha cercato di deviare e che è stato duramente represso, qua appunto un fittolancio di lacrimogeni tenendo le persone accerchiate all'interno di una via molto stretta, per poi arrivare alla piazza finale, diciamo, del percorso, che era già metà chiusa da griglie, camionette e quant'altro. E poi appunto, come dicevi, si è concluso poi con un ferito molto grave, che appunto è questo giornalista, che in questo momento è ancora in coma e diciamo che è fuori pericolo di vita rispetto alle ultime notizie, però appunto è ferito da una granata lanciata da un poliziotto nel momento in cui stavano arrestando delle altre persone per appunto allontanare chi ne chiedeva la liberazione. E appunto, dopodiché, dopo questa grande giornata, continuano appunto gli scioperi e i blocchi, in particolare in periferia sud di Parigi è iniziato il blocco e lo sciopero dei lavoratori nelle discariche. E quindi appunto in questo senso continuano gli scioperi, e per domani si annuncia un'altra giornata di mobilitazione, con la mattina un'azione in solidarietà appunto ai ferrovieri, e al pomeriggio un corteo che per la prima volta, diciamo, non è una data dettata dall'agenda sindacale, perché appunto i sindacati hanno semplicemente chiamato al 14 giugno, quindi tra due settimane, e invece per domani ci sarà questo corteo organizzato dall'assemblea Interlut, quindi diciamo che raccoglie un po' tutti i collettivi, le varie commissioni che si sono venute a creare, che appunto da questi tre mesi sono quelli che poi organizzano più concretamente le azioni, quindi da la commissione sciopero e azione di Nuit Debout, da altri comitati appunto che hanno organizzato tutte le azioni, in particolare di blocchi, di assi stradali, eccetera, la mattina. E niente, quindi si è venuta a creare questa assemblea, e che appunto chiama questo corteo domani, E niente, e ha un'altra assemblea appunto per concludere la giornata di domani e vedere appunto il seguito. Ci senti? Scusa, abbiamo... Ma invece per quanto riguarda le scuole, l'università, insomma, in questi giorni abbiamo visto che si sono appunto diffuse assemblee, blocchi, come insomma... Sì, allora... diciamo che vabbè, con la fine dell'anno ci si è detti, diciamo, in università che restare chiusi in università non aveva più molto senso, soprattutto perché un'università praticamente deserte oppure riempite da persone che vanno semplicemente per dare gli esami. E quindi diciamo che si è venuta a creare un'assemblea settimanale di tutte le facoltà, di tutti gli atenei parigini, che quindi si ritrova in altri posti che non sono l'università, ad esempio la settimana scorsa a Place de la République, in modo tale da coordinarsi in maniera un po' più ampia e appunto per uscire poi dal luogo che in realtà di per sé è diventato meno strumentale rispetto a prima. E, per quanto riguarda invece i liceali, appunto anche lì diciamo che c'è più questa tendenza a uscire per le strade, i blocchi dei licei, insomma, bisognerà vedere se domattina verranno chiamati i blocchi dei licei per prima del corteo. E niente, diciamo che più o meno è questa la situazione. Mm-hmm. Ok, ma senti, ti faccio ancora un'ultima, ti chiedo ancora un'ultima cosa, magari. Ma invece per quanto riguarda la, insomma, un po' la strategia che sta adottando il governo, che insomma sembra voler andare verso aprire qualche trattativa con singole categorie per venire insomma in qualche modo incontro alcune rivendicazioni, ma soprattutto per poi tentare di dividere anche un po', no, la protesta. Sì, allora diciamo che innanzitutto ieri c'è stata la dichiarazione della CGT, che ha detto che diciamo c'è la possibilità di andare a negoziare, mentre appunto fino ad ora la parola d'ordine era il ritiro pure semplice della legge. Dopodiché però, nonostante questo, ad esempio per quanto riguarda il settore degli intermittenti dello spettacolo, mentre inizialmente il governo gli era andato incontro su alcuni punti, ora fa dei passi indietro, e quindi vediamo come in realtà anche su questo fa sì che poi il settore in particolare si rimobilitino e in particolare poi tra l'altro in tutto il contesto di mobilitazione eccetera bisogna anche ricordare il fatto che fra poco iniziano gli europei e quindi sicuramente anche da quel punto di vista molti settori si mobiliteranno contro appunto e soprattutto utilizzeranno anche questo evento per portare le proprie rivendicazioni e poi appunto tutto questo discorso si va poi anche a intrecciare a tutto il discorso di rinnovazione urbana e gentrification, cosa che colpisce poi la banlieue di Saint-Denis, dove appunto c'è lo stadio, dove tutta una serie di nuove infrastrutture, hotel eccetera sono stati costruiti anche per questo motivo, e quindi anche da quel punto di vista sicuramente andrà poi a toccare anche altri settori di lavoratori in base appunto al fatto che ci saranno appunto gli europei che aggiungono, diciamo, un altro elemento, un'altra ragione per mobilitarsi, appunto. Va bene, allora noi sicuramente torneremo a sentirci, visto che appunto seguiremo insomma costantemente tutto quello che succede

vraiment à gagner. En Allemagne, les défilés ont rassemblé des milliers de Londres. Alors, même genre d'occupation au cœur de l'île. Il pleut des émeutes sur le globe. Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite par son main. Dis-le que partout on se rallie, au-delà des frontières et sans aucun parti. Allez leur dire trop, trop spontané pour être en carte et pas si vite. La répression à la haine et frappe même les pacifistes. Le manifestazioni sono emerse perché viviamo già in un'altra maniera, perché crediamo che non ci sia bisogno di capi perché le cose funzionino, perché crediamo che tutti sono capaci di discutere, di esprimere i propri sentimenti e le proprie opinioni, perché crediamo che stare attenti alla terra e ai boschi renda migliori, perché crediamo che con meno soldi si diventi più intelligenti, perché crediamo che ci siano tante maniere di vivere. Sviluppiamo altri modi di vivere ogni giorno in maniera orizzontale. Le nostre preoccupazioni sono sociali, ecologiche, economiche e politiche. Un avenir qu'on falsifie, fragilisé à l'heure où la bonne foi est rarissime. Révolte se ramifie sur chaque continent, c'est imminent. Ingérable sera notre plus beau compliment. Incarnons le changement que l'on veut voir avant de tomber dans un trou noir. Ma lo so che la violenza ti fa star male, non c'è bisogno di spaccare un bancomat per essere dalla stessa parte. Ma la prossima volta che sei in un corteo puoi proteggere chi ha altri strumenti di lotta rispetto ai tuoi. La prossima volta che ascolti la televisione o leggi il giornale, ricordati che ci sono parole che sono utilizzate con un disegno preciso e che non bisogna farsi fregare. Au jour le jour, car demain n'est pas indiqué. Révolution par le bas, car leur monde est mal imbriqué. Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée. Printemps 2011 a vu fleurir des milliers d'indignés. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine. Indignados, papapapapapos. C'est une dingue qui s'est levée mondialement et sans parti. Sai, l'altro giorno siamo andati in un bar, c'erano anarchici, amministratori locali, membri dei partiti ecologisti, autonomi, maoisti. Tutti si conoscevano almeno di vista, abbiamo parlato, tutti insieme. Certo, a volte i toni sono saliti, ma invece di andarsene sbattendo la porta, uno di noi si è alzato per prendere da bere a tutti, perché bisogna continuare a discutere. Riconoscendo gli strumenti di lotta degli altri, anche se non abbiamo tutti gli stessi, sarebbe brutto privarsi della minima possibilità di lottare fianco a fianco. Il mondo dovrebbe essere un immenso bar, potremmo dirci che lavoriamo insieme, anche se non condividiamo le stesse analisi e gli stessi obiettivi. Oggi ci opponiamo a questo mondo e sembra complicato trovare un compromesso. Il dialogo sociale che promuovono non è che un'illusione, è basato solo sulle loro regole. Che la smettano con le loro bugie, la loro cupidigia, le loro molestie. Che la smettano di sottomettere i popoli attraverso la guerra, di imporre la propria visione con tanta arroganza. I loro eccessi ci fanno vomitare, ci spingono poco a poco verso uno stato autoritario, non è sopportabile. Non vogliamo più il loro mondo, non vogliamo più vivere o sopravvivere secondo le loro regole. La loro ostinazione ci sorprende. Rebeldía unida como una suerte única. Última batalla como podemos olvidar. Hay sangre en lágrimas sino desde ahorita. El humano salió el puño levantado. Indignados unidos con los pueblos de todos lados. Viejo mundo adiós, no es que un sueño. Pero lo que llega si asustamos a los dueños. Porque somos juntos más allá. Ma ti lascio, tra poco è l'ora della manifestazione. E giustamente vado a vedere se non è l'occasione per lanciare qualche messaggio. Sì, mi metterò delle scarpe da ginnastica e una felpa nera col cappuccio. Ma ricordati, non è per farti paura, è per proteggermi. Se vedi scarpe della ginnastica e una felpa nera col cappuccio passare correndo, siamo forse io e i miei amici. Non aver paura. A dopo, se abbiamo abbastanza benzina. Della frontera. Levantate, levantate. El mismo corazón para todos los hijos de la tierra. Levantate, levantate. Los verdugos mataron la paz. La paz. Olvidaron la fuerza del amor. Acá los pueblos tienen la rabia. Pueblos unidos. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. La rue se soulevé en faire trembler la machine. Indignados. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. C'est une dingue qui s'est levée mondialement et sans parti. Indignados. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ingénie, lève-toi. Dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers. Quien est salaud à la cage, est-ce que fut le printemps qui marquera l'histoire. Hacker anonyme qui fait trembler le pouvoir. La Grèce antique peut être fière de sa postérité, luttant avec courage contre leurs mesures d'austérité. Indignados s'est embrasé sur le globe. Partout a résonné l'appel de la porte del sol. Comme une traînée de poudre s'est propagée la révolte. Parce qu'au-delà de nos frontières on s'est reconnu dans l'autre. Une seule et même terre meurtrie. Et ya, l'âme collective a le cœur triste. Écoute, l'insurrection est de sortie. La rue s'est soulevée même jusqu'au pied de Wall Street. Un même cœur au milieu de racines. Contre politique fasciste à l'heure où police assassine. Rien de facile, précipice, on a quitté la file. Y'a de l'espoir dans l'air, écartez-vous. Les indignés arrivent. La rue s'est soulevée, en faire trembler la machine. Indignados, paramos. C'est une aile qui s'est levée mondialement et sans parti. Indignados, paramos. Indigné, lève-toi. Anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers. Quel est salaud à la cagesse. La rabia, paramos, espérance, la rimane la la. Sono le 12:17, allora chiudiamo questa parentesi sulla Francia con insomma, la promessa di tornare a parlarne sicuramente nelle prossime settimane. Ci spostiamo di nuovo alle nostre latitudini per ricordare nuovamente l'appuntamento di quest'oggi, notizia insomma di questi ultimi giorni che oggi Matteo Salvini, in odore appunto di campagna elettorale, verrà a fare l'ennesima pagliacciata qui a Torino, in particolare a Porta Palazzo, quindi insomma anche con un certo gusto per la provocazione. Sarà appunto alle 15:30 sotto l'orologio del mercato coperto. Sta circolando in rete questo appello a insomma rendergli perlomeno più sgradevole possibile la sua permanenza a Torino, quindi appunto l'invito è a trovarsi dalle parti di Porta Palazzo alle 3:30 puntuali, perché come al solito insomma la sua permanenza sarà molto breve, probabilmente lo vedremo scappare poi subito a gambe elevate verso altre mete, però insomma facciamogli sentire quanto è sgradito a Torino come altrove. E a proposito appunto di altre città in cui la calata del fascio leghista è prevista, a Bologna appunto la sua visita per domani era annunciata già da qualche tempo. Contro la sua visita si è da subito attivata insomma una mobilitazione molto vasta per contrastare la sua presenza. In particolare Salvini avrebbe dovuto parlare in Piazza Verdi, che insomma in questi anni assunto un po' a ruolo simbolo delle mobilitazioni cittadine. La notizia di ieri appunto che l'annunciata mobilitazione che partirà già da questa sera ha fatto sì che a Salvini sia stata vietata la piazza, cosa che ha fatto arrabbiare non poco il leader leghista, quindi accogliamo sicuramente intanto con piacere questa prima notizia. Domani insomma immagino che anche da questi microfoni verrà seguito lo svolgersi della protesta appunto contro Salvini. Get the flow. Odio la gente da sempre, come odio quel modo in cui mente per niente. Odio quel voto che rendono oro, quel modo che c'hanno di credere a niente. Niente. Odio le mode di merda, le code di gente, le folle, la fila, le facce che ridono sotto la metro, poi sogni che esplodano come Hiroshima. Sangue c'è che china sopra ogni mia rima e vale tutto. Chiudimi in gabbia di carta, spacco la faccia tutto quello che ho vissuto. Le esperienze come argilla passano anche i guai. Quello che resta ce l'hai nelle mani, poi conta che forma gli dai. Quanti ne ho avuti di guai, quanti hanno trasformata di merda, sai. Tanto più il resto cadeva più in basso, io tanto più alzavo il volume all'hi-fi. Vai, oh, oh, cazzo ne sai. Odio il tuo cazzo di flow, come trattate l'hip hop, come trattate la musica, come se fosse uno show. Piene le palle da un po', piene le mani di schiaffi, vediamo chi è che le do. Facce di cazzo, cambiate qualcosa, chiudete quei cazzo di vlog. Però sono pazzo, lo so, troppo. Se no, tu sei cattolico, no. Amo il mio prossimo come me stesso, è per questo che vi odio da un po'. Ciao, bro. Qua nessuno sa in quale posto va. Vivo e non sanno, sono morti già. Ma tu fa un culo tutto, fuck my fucking rhymes. I'm running out of my mind. Dell'ordine fino a che l'ordine è piramidale. Quindi ogni infame che ha il soldo dell'ordine difende l'ordine, non l'ordinare. Odio le banche, le pare, credo sia cosa ordinale. Credo che possa cambiare. Sogno di farti pagare ogni tuo capitale, di meglio che può capitare. Il nuovo schiavismo non è carnale, non fisico, è solitamente mentale. Solitamente non pago coi soldi degli altri, ma ogni altro lo continuo a fare. Economia coloniale, chiedi alla banca centrale. Normale che quando le leggi le fanno gli ingiusti, ogni loro ingiustizia diventi legale. Dice normale, bro, ammettilo, che avresti fatto lo stesso. Che un avido resta un avido, un tossico resta fatto lo stesso. Che il bene è più falso del male, che almeno è di un falso reale. Grazie di un pazzo geniale che gira i Ferrari progressi, a piedi va l'evoluzione mentale. Tutto è così occidentale che nasce da serio e diventa banale. Così complesso e radiale che torni allo zero, continui e continuerai male. Bro, fare l'hardcore non è essere snob, non è essere un flop, è sentire il sangue che scorre di vero ogni cazzo di giorno che c'ho. Ma bla bla, qua nessuno sa in quale posto va. Vivono e non sanno, sono morti già. Andò a fanculo tutto, fuck my fucking rhymes. I'm running out of my mind. Quell'area da pagliaccio quando viene i nostri live, che sei fuori luogo come in spiaggia con 40 gradi un bike, Pullman style, oh. Fuoco per la massive, rabbia da upstyle, microfono schiaccia sassi e siamo fuori dagli schemi. Siamo fuori o siamo veri, siamo sempre presi bene, quindi incazzati neri. Troppo estremi, ma se chiedi la risposta che ricevi non è certo bella frana, minchia raga, troppo seri, eh. Ed i problemi sono i tuoi, non di certi miei. Tu che canti il personaggio che nemmeno sei. Piuttosto che ascoltarti la mia gente ascolta Vasco. Ho problemi con la legge, sempre verde c'ha la Dasco. Ed è un disastro quando stringo il microphone, ti distruggo il timpano, vai a comprarti l'amplifon. E se le nostre idee non sono le tue, queste combat reg music 1-3-1-2. Peyote con i Pullman, arrivo con due Pullman. Se vuoi tutta la ciurma, la massive già che urla. Col flavor di Mazzone mentre va sotto la curva. Suono troppo hardcore di urta, beh, desculpa. Porto con me disagio il grigio di Torino, alla faccia del tuo mito profondo come un tombino. Reggae suona Riot, la rabbia che esprimo fa il giro dall'ultimo stronzo fino al primo cittadino. Questo è uno schiaffo in faccia, non è una fottuta canzone. Ogni rima è cassazione, decapitazione, scocca il tempo dell'azione. Vista la situazione, in Italia l'ignoranza è parte della tradizione. Lo sai che diamo il bianco, talmente caldo che porta l'autocombustione il palco quando ci salgo. Centro sociale occupato, PM31. Chiudi la bocca e mandane uno. Ok amico, you don't like me, non ti piaccio. Fotto un cazzo col flow di schiaccio. Ti porto morfaglia ma il cuore di ghiaccio. Dallo stesso villaggio, stesso viaggio. Sin dai tempi tu dici come impennava col piaccio. Rimo ad alto voltaggio, ancora fa il gaggio. Merda metti più tristezza di Paolo Villaggio. Mica fan tozzi, ma si mica fan livelli col microfono in mano. Mica fan tocci, mica belloci. Segni sopra il mio volto. Per quanto sta musica mi possa dare, non pare già quello che ha tolto. Trova il cicco miracolato, ricomincio da capo capo. Come Vasco spericolato, scrivo rime oro colato. Non trovi la mia faccia sulle riviste. Trema tutto quando suona il sound system. Paolito baby giù coi Pullman, tutta la band. Quando suona ti fa bang, bang, bang. Genio sovversivo, polemico impulsivo. Corrosivo, corrosivo quando scrivo Pullman again. Con Peyote Paolito tu, beccati sta botta. Io mi calmo la volta che mi torna il sorriso. Mi presento con il mio DJ che sono sempre io. Il tuo suono di plastica cade nell'oblio. My sound is a champion. Dai io sto campione, dopo il multivariton diventa un classico. Musica manifesto, più di Talib, Coeli, Marx e Engel. Musica ribelle, più di Finardi. Quando suono fuochi e petardi, più che nella notte di San Giovanni. Zero fry, oh bro. Questo è reggae con Batroc, Revolution Rock. Come Topper Paul, Nicky Joe. And now you do what they told ya. E levati dal cazzo, sono il nuovo Zappella la roccia. Proseguiamo con qualche aggiornamento sul panorama giovanile che si prospetta, insomma, in questo ultimo periodo. È notizia di ieri che il che Matteo Renzi ha ancora una volta rifiutato di approvare il decreto che cercava di regolamentare l'uso dei voucher. I voucher sono dei buoni attraverso cui tutti i lavoratori che non hanno un contratto vengono pagati e vengono quindi utilizzati per coprire qualsiasi mansione, qualsiasi servizio, qualsiasi occupazione in nero che insomma senza che ci chi lavora abbia la possibilità di avere un contratto. Quindi è uno strumento che il PD decide di non regolamentare e almeno 200.000 lavoratori sono ormai pagati con questi buoni e i voucher sono effettivamente più che triplicati negli ultimi 3 anni. Ain't no funny money, don't want no fuddy duddy. Or some two-tone tug in a cruddy hoodie. You gotta step to the girls with something more than I like quick connects, hockey talk like broadband. Perhaps a suit, briefcase and an umbrella. Throw some glasses on, pretend you ain't a dumb redder. But if you really wanna go one better, stay clear with gold figures on the after you check. Wise words to live by. Believe me, this is bad. Don't let the girl then slip by. Only the good ones catch my eye. Wise words to live by. Believe me, this is right. Don't let the good girls slip by. Only the hot ones catch. Quindi sembra che il PD, oltre ad aver rimandato la regolamentazione di questi voucher, faccia finta che siano comparsi dal nulla, perché invece sono stati loro stessi, cioè è stato il governo stesso ad inserirli nella riforma del lavoro, cioè nel Jobs Act. From my father's friends while they smoked and drink. Symphony, DLC inspired me to write what would eventually put me on airplanes like B.O.B. Cannabis, Wu-Tang, you know our history. But hats off when we rap as Jack Frost. We outline a track chart. Thank God for the 1-2 cable. Thank God for the lunchroom table. I'm trying to be the sickest nigga dead or alive. And if I happen to fall short, it's been one hell of a ride. Chronic 1 and 2, looking up at the sky and the sun. Up until the day the sun is you. You're listening to hip hop. You in J House, Wayne House, Nas House, M House, R House. Wanted to be a rapper. Wanted to be on the radio and snapping pictures after. And so I grabbed my pen and pad and scribbled chitter chatter. It started off whack, but in the words of a 10-year-old, my shit was getting fatter. I hit the studio at 16, stupider, not knowing how the booth would feel. What's ADATS and 2 inch real? How you ad-lib? What's a punch? I ain't a boxer, but I sure enough learned the ropes. Look, being Mike, I made a monster. Now every day's a game of Contra. I got 99 men, an infinite amount of rounds inside this mighty fine pen. This is my dream. Don't fuck with it, I'm telling you, cause anyone can get dusted. Long as production is available, I'm disgusted as a fan. Look how niggas sounding, damn. Weak head, y'all suck bad. Fuck swag and your kicks from South. Japan, I'm finna be the best in this profession. I've been invested all my life, so wipe your feet before you step in. Farhouse. Continuiamo con qualche altra cattiva notizia, sempre sul mondo giovanile del lavoro. Dunque, il Sole 24 Ore ci informa che ogni settimana viene pubblicato sul sito della Garanzia Giovani il report di quanto, insomma, i risultati di questo piano, forse non si può chiamare piano di lavoro per i giovani. Dunque, gli ultimi numeri confermano il fallimento di questa di questo progetto del governo. Ci informano che insomma i giovani che vengono presi in carico per essere immessi nel mondo del lavoro sono più di 600.000 e solo circa 300.000 sono quelli a cui arriva un'effettiva proposta di lavoro, che ci chiediamo se magari non sarebbero riusciti a trovarle da soli queste proposte di lavoro. E ancora più bassi sono i numeri di coloro che riescono ad avere un'opportunità di lavoro, cioè poco più di 220.000. Quindi il tasso di disoccupazione giovanile in Italia rimane comunque altissimo, anzi aumentato partendo dal 2015, e sembra che questi dati riconfermino semplicemente il piano generale di Renzi, che è quello di cercare di far guadagnare le aziende inserendole nelle crepe che già governi precedenti avevano creato. E in questo futuro per noi di incertezza gli unici che ci guadagnano sono le ditte private, che ancora una volta, per esempio nel piano della garanzia giovani, traggono un guadagno dal prendersi in carico questi giovani che cercano disperatamente lavoro. Sembra che guadagnino molto più loro di quanto noi riusciamo a realizzare. La gente in coppa i sordi, guarda in faccia nessuno. Io che dei carte use, si carta conosciuto. Ma vira mie savi, lo sai che non è per noi. Si in coppa chi lo mezzo c'è se vi. Correvano a tutti i compagni mi. Chiamava te compagni mi. Scendevano i compagni mi. Sto insieme a te compagni mi. Yeah. Ma passo rita attorno con le po' a mano in coppa coscienza. Non mi pria fra i sottia, non ti senta. Asciuta galera, io mi appiglia dopo Skyeng. Mo ci pensi nei compagni tuoi, sta senza pensieri. E sapevi quando va la pobrezza che pava. A guerra vince chi sa pa' aspettava. O mezzo non mi assicurato, ma noi siamo armati. Rispettammo chi spara lontano. Come andi a lato, ma niente a te stessa. Fra non si è cansa, già fa con la monica. Scarfa non anda gradi, in da cucina. I fratemi sono chef, era per ristorante. Quando combattimmo non si mai sportivo. Se tu fai paura, noi facciamo schifo. A notizie gira, a lancette gira. Vide chi ti fida, si sta in mia salia. L'hanno fatta fuori a mie zioni. Tanta gente, zero testimone. L'ambulanza si allontana, giano giano. Falla sta chiamata e dice tutto a posto. Fra i volevi a scuola, ma po' manit calo ma che conta. Sulo nome sordo, ma me lave in mano con l'acqua santa, perché io sai esordo su una cosa sporca. Che caso settimo piano, ascensore se fermo ses. Si scama a manu traditore, giorno appresso in vita ma scende. Sento un golpe esordo, guarda in faccia nessuno. Io che dei carte use, si carta conosciuto. Ma vira mie savi, o sai che non è per noi. Si ingoppa chi lo mezzo c'è se vi. Correvano a tutti i compagni mi. Sempre a proposito di formazione e lavoro, a Renzi insomma piace metterle assieme queste due cose. Andiamo a parlare anche un po' di scuole superiori. Sappiamo che con la riforma della buona scuola è stato inserito c'è stato un inserimento nella riforma di un tot di ore di lavoro che devono essere svolte da tutti gli studenti di tutte le scuole superiori. Quindi ci saranno gli istituti tecnici che avranno almeno 400 ore di stage da lavorare non retribuiti, e invece per gli istituti, per i licei queste ore ammontano a circa 200. Sembra che anche questo progetto sia un totale fallimento e che gli studenti non siano per niente contenti delle proposte e dei risultati che vengono ottenuti nelle scuole. Infatti ogni scuola, dovendosi far carico di inserire gli studenti nel lavoro, cerca tutte le possibili attività da svolgere, e sono successi degli episodi direi imbarazzanti. Per esempio, al liceo Siotto Pintor di Cagliari è capitato che gli studenti venissero portati a fare alternanza scuola-lavoro alla Saras, addirittura fuori dall'orario scolastico, che è una, è un polo petrolchimico. Per chi non lo sapesse, ci si chiede quanto sia possibile, cioè quanto c'entri con il percorso di studi e quanto sia giusto che gli studenti vengano portati a svolgere delle mansioni senza essere retribuiti, fuori dall'orario scolastico, oppure addirittura levando ore dal percorso di formazione per immetterli nel mondo del lavoro. Lo stesso accade in tutte le altre città d'Italia. Insomma, ci si chiede quale sia la funzione di questa riforma e di questa iniziativa da parte del governo. Sarà forse quella di abituare gli studenti ad essere precari? Sarà forse quella di abituare gli studenti a lavorare non retribuiti, ad apprezzare il lavoro spiccio? Insomma, ci chiediamo qual è l'intenzione del governo. Forse quella di abituarci anche a un futuro che per noi si traduce in garanzia giovani e in lavori pagati con i voucher. Sono insieme a te, compagni mi. Rubare movimento giusto, rubare investimento giusto. Ma porta a te, compagni miei, fin quando ci sono io, sanno ci sta un futuro. I paga pazzi per i compagni mi, si mana forza i compagni mi. Sono cresciuto che i compagni mi, pronto a morire per i compagni mi. Frare, spira ancora, giumento e fiero, e piscia ancora, capa si inconscienda, venga 10 e 0. Sto pigliando per, papana cena, non mi serve un rap. Quando c'è visto, che mi levano gol, agito ok, salta fatico doppio. Faccio di disc, intanto io hanno, e due volte ci cagnato io. Mamma buona bene, mamma tene buona, manna boicottata e sono tornata forte. Parli pieza vi, o parlare amore, con mamietta a mietti, scrivo meglio l'ora. Vai contro a me, ti scavamma fosse, o tappisciamo si troviamo patrole. Urgava light, tengo fritto in gol, di marato core, la giapata rossa, fra ci pensi, faccio una pisciata e ci pensi, tu stai senza pensiero, voi sapete sulla lattura, noi sappiamo a chi li lo vera. I con rap te buco schermi, frate mi te buco non spero. E storia me te la snappere, storia me te fanno fan bene. Guarda in faccia nessuno, io che dei carte use, si carta conosciuto. Ma vira mie savi, o sai che non è fer nulla. Si ingoppa chi lo mezzo c'è se vi, correvano a tutti i compagni mi. Chiamava te compagni mi. .38 su 105.250, ultimi minuti a disposizione di Parole Ribelli per questa settimana. Concludiamo con una breve corrispondenza che era stata rimandata dall'info. Abbiamo questi microfoni Ambra della palestra popolare Antifa Box di Torino per presentare la 3 giorni di sport popolare che si terrà questo fine settimana. Ciao Ambra. Ambra, ci senti? Ok, direi che abbiamo perso il collegamento, quindi cerchiamo di ripristinarlo subito. This is a world premiere. I have been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me. But enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself. But they can do what they want, whenever they want, I don't mind. I love myself. You said I gotta get up, life's more than suicide. I love myself. One day at a time, sun gon' shine. Everybody looking at you crazy, crazy. What you gon' do? What you gon' do? Lift up your head and keep moving. Keep moving. Won't let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence, everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this, I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself. But they can do what they want, whenever they want, I don't mind. I love myself. and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yeah. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up. Allora ci riproviamo, adesso dovremmo davvero avere Ambra in collegamento. Ciao Ambra. Ciao, ciao a tutti e tutte. Allora, con te volevamo presentare appunto questa tre giorni di sport popolare di questo fine settimana promossa dal coordinamento antifascista delle palestre popolari autogestite. Quindi a te la parola per raccontarci del progetto e poi illustrarci brevemente il programma. Sì, allora, il coordinamento antifascista delle palestre popolari autogestite si è formato negli ultimi mesi e raggruppa varie palestre in tutta Italia, diciamo palestre che si riconoscono nei valori dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'antisessismo fondamentalmente. Il 3, 4 e 5 giugno, quindi questo venerdì, sabato e domenica, ci sarà questa tre giorni organizzata dal coordinamento, nella quale si affronteranno sia tematiche sportive, quindi a partire soprattutto dal pugilato, ad attività e dibattiti di altra natura e altro genere. Diciamo che si parte dalla pratica sportiva, quindi vista nell'ottica della più possibile accessibilità a tutti e che sia possibilmente fuori da logiche competitive di mercificazione che invece magari si vanno a ritrovare in ambienti più professionali o agonistici. E diciamo che poi si parlerà anche, ci sarà una serata nello specifico dedicata al ricordo del G8 di Genova, in quanto sono 15 anni ora dal G8, e quindi si andrà un po' ad affrontare il dramma che è stato un po' culminato poi con la morte di Carlo Giuliani, e a questo però si collegherà quello che si è ereditato poi terribile da quelle giornate, cioè il tendere ad affrontare la tematica del reato di devastazione e saccheggio, reato di matrice fascista che è stato rispolverato e poi riattualizzato e viene utilizzato all'oggi e che in questo momento a livello italiano grava su diversi compagni che rischiano pene pesantissime. E al di là di questo, rispetto invece al discorso più sportivo, sono anche 15 anni della palestra Antifa Box, quindi come ogni anno verranno organizzati incontri ed esibizioni, quest'anno più esibizioni diciamo che incontri, e quindi ci sarà una serata completamente dedicata alla box, insomma, prettamente. E la tre giorni poi andrà a concludersi con un'assemblea delle palestre aperta a tutti. Va bene Ambra, allora noi rimandiamo sicuramente alla pagina Facebook. Sì, al sito anche, c'è tutto il programma sia sul sito Antifa Box Torino che sulla pagina Facebook. Perfetto, quindi per chi volesse consultare il programma nel dettaglio rimandiamo a questi due riferimenti. Comunque ricordiamo, si parte quindi venerdì 3 giugno e si va avanti fino a domenica con l'assemblea conclusiva. Noi sì. Ti ringraziamo e ci vediamo sicuramente questo fine settimana. Grazie mille. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao. On the edge, on the wire. I'm from the group where friction leads to fire. Stack your bricks, the time is take your pick. Do it, don't. The track, alchemist. Yo, my life is good. I got my peeps in the mix, so. Roots come to roots, my peoples come first. I got worldwide family all over the earth. And I worry about them all for whatever it's worth. From the birth to the hearse, through streets the guns burst. Words I disperse are here to free minds. Yeah. And if mine are needy, I need to feed mine. When words come to words, set up shop and write a verse. Actually, that's best come to best. My lyrics take care of me, they therapy, get shit off my chest. Extra stress, 3-4 over the score. Different patterns of rhyming prepare me for war. So next time you see us, we'll be deadly on tour. But when words come to words, my peoples come first. Word up, if worst comes to worst, I make whole crews disperse. You know it's family first. 12:45 in punto, noi ci stiamo accingendo a lasciare questi microfoni, vogliamo però prima ricordarvi gli appuntamenti, innanzitutto di domani, giovedì 2 giugno. Allora, al CSOA Scatasuna, Kino Bis Cineforum, ore 20:30, ciclo Thomas Millian, proiezione di Corri Uomo Corri di Sollima. Ore 22:30, ciclo Indimenticabile Serie B, proiezione di Una lucertola con la pelle di donna di Lucio Fulci. I'm a glutton for the truth, even though truth hurts. I've studied with my peoples on streets and in church. We make it hard when we go on first. Long road, honor of the samurai code. These California streets ain't. E per quanto riguarda invece Radio Blackout, in attesa del Blackout Fest ormai imminente, sempre nella giornata di domani, giovedì 2 giugno, potete allietarvi qui nel cortile di Via Cecchi con la piola di Blackout a partire dalle ore 20 qui in Via Cecchi 21/A. These California streets ain't paved with gold. I got that back. At the end of the day, we could go our separate ways, but the song remains and won't change. Sempre domani, giornata di festa del 2 giugno, è festa anche Notav, infatti ricordiamo l'appuntamento dalle ore 15 al Pian delle Rovine in Alta Val Clarea, dove per tutto il pomeriggio ci saranno varie, insomma, momenti di festa e una grigliata poi la sera. La puntata di oggi è conclusa, quindi vi salutiamo e ci vedremo la settimana prossima. Un saluto da Carla. E un saluto anche da Francesca. Rimanete sintonizzati sui 105.250. Ciao!